Doppio sconto, grandi saldi. Non aspettare. Scatenati con lo shopping a MacArthur Glen nella Reggia Designer Outlet e risparmia sui tuoi fashion brand preferiti con prezzi outlet ancora più scontati. Vieni a trovarci. Sabato e domenica siamo aperti fino alle 21. Ciao a tutti e benvenuti, perché voi dovete capire che l'estate è sempre un momento agoniato perché ci sono le ferie, però poi quando ci sono le ferie uno si rompe i coglioni e non sa più cosa fare, e quindi tra le cose che uno cerca di fare per far passare il tempo c'è anche quell'aspetto punitivo che è dentro di noi, quel masochismo che ci costringe a vedere cose brutte. Marco Gualdi. Non è un aspetto positivo, è sopravvivenza, non ti fa pensare al caldo, cioè tu hai un altro tipo di sofferenza in quel momento, quindi ti copre la sofferenza da caldo. Tu c'avevi caldo quando hai visto quel film? Ti è passato. Non ce l'hai più quel caldo, se pensa perché sto guardando questa cosa, perché sto facendo questa cosa. Che e... poi è una cosa che noi abbiamo fatto tante volte negli anni, tante volte, ma sempre, poi ogni spesso. Volta cercavamo di dargli un senso, una forma, la volevamo fare in streaming, poi ce lo bannavano, una cosa e un'altra, quindi abbiamo detto senti sti cazzi, guardiamoci dei film bellissimi e poi ne parliamo ovviamente in questa versione di Popcorner del tutto estiva e del tutto arbitraria, perché non abbiamo detto niente a nessuno. Infatti abbiamo usurpato il nome, perché questa è un po' una trasmissione che va un po' Popcorner, un po' Visto Cose, un po' Ritardo, c'è il tempo perduto, un po' crossover pure con Ho Visto Cose, perché in questo caso è Ho Visto Cose che non vedresti mai in Ho Visto Cose, che cioè, non bisognerei neanche di ricordarmi, eppure adesso per colpa tua, perché poi devi prendere tu la tua colpa, le responsabilità, ho una parte dei miei neuroni impiastrati di questa roba, cioè sta lì, capito, come una sgommata di marmellata. Vabbè, no? Ma in realtà così. Una volta ti piacevano le cose brutte. Sì, le cose brutte. Considera no. Che secondo me c'è anche. Vabbè, saranno 3-4 puntate che faremo uscire a distanza di poco tempo, dove parleremo di film brutti, che appunto non ne sentirete mai parlare, non ho visto cose perché Olivia si rifiuterebbe di vedere questa roba, ma non sentirete mai parlare da nessuno, immagino. Esatto, perché, esatto. La stessa cosa dicono i registi e gli attori che vi hanno partecipato, loro stessi non ne parlano. Fanno finta che non siano mai stati fatti. Esatto. Però vabbè, comunque in questa versione, però diciamo una cosa, che a Olivia abbiamo fatto vedere alcune puntate a sbafo della seconda stagione di Spazio 1999. È vero. Ed è rimasta colpita tutto sommato, cioè quell'intrigato tra il ma cosa? E però allo stesso tempo pure voglio vedere come va a finire, perché questi telefilm degli anni 70, insomma, in qualche maniera molti persone non li conoscono, magari persone che non fanno parte di quella generazione, poi quando li vedono dicono cioè, hanno due opzioni: ammazza e sosseria, oppure è talmente brutto e voglio vedere come, che poi non è brutto, Spazio 1999 è bellissimo, però è chiaro che c'era tutta una serie di, come posso dire, iconografie tipiche della fantascienza dell'ora, no? Dettate anche al 99,9% dal fatto che non c'erano pochi soldi. E non c'erano effetti luci in qualche lampeggianti modo. Esatto, come luce. Quando tu vuoi fare qualche cosa di misterioso metti una luce colorata. Esatto. Funziona sempre. Esatto. Funziona sempre, che è o un'entità o un'energia, queste cose Vabbè, comunque sarebbe bello che ne parlassi in una puntata di Ho visto cose di Spazio 1999. Magari fai vedere altre due puntate. Faccio la prima puntata però. Perché sto curioso proprio di sentire che cosa ne pensa Olivia di questo. Ma comunque, torniamo a noi. Tempo fa, quindi ritorniamo a questa prima puntata di questi corti, puntate brevi, insomma, poi vediamo quanto brevi, perché insomma con noi non si sa mai, di Pop Corner, che abusivamente non abbiamo detto niente a nessuno, ci siamo messi a fare questo e abbiamo visto tempo fa, per caso, ma perché io scartabellando, cliccando insomma su YouTube, a un certo punto, e questa sera avevamo già parlato, non so se ti ricordi, su Pop Corner, su OGM, su YouTube ci sono dei canali che legalmente distribuiscono film con coraggio. No, diciamo che alcuni sono anche di produzioni importanti, tipo Eagles e via dicendo, no? Che vengono presi, doppiati in italiano e messi in questi canali, e altri invece, tra tutto il listone della roba che pubblicano tutti i stessi, ovviamente c'è anche un sacco di... Diciamo che sono un po' come i carrelli dei supermercati, dove ci buttano tutta la roba che vogliono da via due picci, esatto. E loro raccolgono e ci hanno fatto il canale. I cassoni, i scatoloni, quelli del coso, del Media World. Esatto, okay. Tutto lì non sai che cosa ci può trovare. Ci può trovare un film fighissimo. Però costa un euro e tu lo prendi. Come, no? Cioè, un film di merda. Esatto. In questo caso trovare un film fighissimo è molto difficile. È difficile, anche se io poi una cosa carina l'ho anche vista, devo dire la verità. Comunque mi è capitato. Qui ci sono questi diversi canali che prendono questi film, li doppiano in italiano, o li prendono doppiati in italiano e li pubblicano su YouTube gratuitamente senza nessun problema. Tu vai lì e te li vedi. Nello specifico, noi avevamo trovati alcuni che c'era, insomma, film che sono anche usciti al cinema, che però magari erano brutti, insomma. Però abbiamo trovato questo, si chiama Movie Don't Eat, quindi vuol dire che c'è anche una versione internazionale di altre nazioni, Movie Dome, dove YouTube mi ha suggerito questo film, che è un film indipendente, talmente indipendente. Che è uno solo che lo fa sto film, secondo me pure lui è lo stesso, è il regista, che si chiama Astronauts, che io ho iniziato a vederlo, ho detto guarda, questo video è brutto, ma all'inizio non sembra neanche fatto male, fino a che non c'è il primo effetto speciale del fuoco e lì, esatto, dell'incidente, esatto, dell'incidente, e lì già sono cascate. E allora gli ho detto: Marco, guardiamoci questo Astronauts. Allora, prima di tutto la scheda, c'è una scheda di questo film incredibile. C'è una scheda che vado a vedere, perché questo è un film dove c'è anche un attorone. Vabbè, un attorone. Vabbè, un attore conosciuto. Sì. Perché è un film del 2012, in regia di Eric Hayden. Chissà se è parente di quello delle Guerre Stellari, non credo, E titolo originale The Last Push, cioè l'ultima spinta. Esatto. Chissà perché in Astronauts. Cioè, tra l'altro in inglese, allora, chiamano Astronauti. Esatto, esatto. Cioè, tu hai tradotto un titolo in inglese con un altro titolo ma in inglese. Ma guarda che a cazzo. Ogni tanto le fanno queste cose a cazzo, perché i titolisti sappiamo che sono, diciamo, gente che usano droghe. Il film The Last Push non vuol dire in cazzo, No, cioè, The Last Push no. Cioè, però uno deve pensare, qui si parla di droghe, insomma. Questo, diciamo che non si sa mai. Questo specifico caso, secondo me, il titolo originale è peggio del titolo dei titolisti italiani, insomma. Sì. Ma fallo in italiano a sto punto. Esatto. Oppure chiamano L'ultima spinta. L'ultima spinta. Che pure lì, che sto vedendo? Che cosa sto andando a vedere? Se arrivi nel finale, che poi vi spoileremo, perché non lo vedrete mai questo film, c'ha anche un po' senso, insomma, poi il titolo, però di per sé. Però andiamo a dire il cast è Carrie Payton. E poi c'è Brian Bram Gunther. E poi c'è Lance Erickson, ragazzi, cioè Lance Erickson, che deve pagare il mutuo evidentemente, perché, cioè, vabbè, questa era come Rutger Hauer, che alla fine ha fatto tantissimi film indipendenti, perché lui era un appassionato, però ha fatto un sacco di monnezza, ovviamente. Ma sì, per carità di Dio. Cioè, ci sta, no? Nel senso, arriva il regista indipendente che ti dice, guarda, io ho $5,000 per fare sto film. 4.900 glieli do a lei. Esatto. Il resto dobbiamo trovare per fare, guarda, tanto basta un vestito, una seggia, si mette seduto e parla, e finiamo il film in 10 minuti. Ma lega la trama. Che allora, nel 2011 viene scoperta la possibilità di presenza di vita su una delle lune di Giove. Così due coraggiosi astronauti, ecco perché Astronauts, si troveranno imbarcati per un viaggio interplanetario di 13 anni per raggiungerlo. non tutto può andare liscio. Cioè, ma perché ci vogliono 13 anni per arrivare su Europa? Io non so convinto. Credo di sì, lo sai, perché col motore a sputo che abbiamo noi. Vabbè, intanto che tu leggi, lo anche chiedo. Anche perché ci vogliono mesi per arrivare su Marte. Vediamo la Gemini. Non tutto può andare liscio e uno dei copiloti rimane morto, muore. Sto pensando ai copiloti, sono due, quindi immaginatevi che bella situazione. Quindi Michael, rimasto solo, deve riuscire a restare presente e affrontare 3 anni di viaggio in solitudine per tornare a casa. La difficoltà a tornare sano e salvo sia fisicamente che mentalmente. I contatti con la Terra sono sporadici e il silenzio diventa ben presto assordante. Bello, bella trama perché poi praticamente c'è questa situazione, immaginatevi, che può dare inizio a tante tante riflessioni, tante cose anche di, diciamo, di introspezione, no? Che però questo film, insomma, non so, sì, ben fatto, allora, diciamo che allora questo film subito, immediatamente fa diciamo trapelare la sua natura very low budget, cioè nel senso, penso che abbiamo visto no budget, questo è no budget, no qualche budget c'è, perché soprattutto all'inizio c'è un certo numero di persone, però poi alla fine il film è completamente retto da una persona sola. La storia poi all'inizio è interessante perché c'è questo tizio che è tipo Elon Musk, questo ultra miliardario, che praticamente entrando in polemica con la NASA dice: "Ma non mi frega un cazzo dei vostri protocolli di sicurezza, io ho i miliardi, quindi costruisco questa astronave e mando questi due stronzi a fare foto delle balene d'Europa. D'Europa, anda su Europa a fare le fotografie." Questi partono con questa astronave, ragazzi, io non voglio dire, no? Allora, dopo leggo quello che dice qui Gemini, no? Però ammesso in un concesso ci vogliono 13 anni, no, per arrivare, no? Infatti loro, cioè questo parte male perché questi hanno praticamente una capsula di ibernazione, cioè una testa, e praticamente succede un incidente non meglio identificato, cioè non so se poi viene spiegato, non me lo ricordo. Sì, ma cioè nel senso non c'hai la tecnologia per arrivare veloce su Europa, ma c'hai la tecnologia dell'ibernazione. E perché è più facile. E poi la cosa bella, e poi ti lascio parlare, è che praticamente questa astronave che contiene 2 persone, ricordiamo, importante, quindi per quanto possibile risparmiando tempo, spazio e soldi, deve avere spazio vitale per 2 persone, è composta da cabina di pilotaggio. Voi immaginate, non lo so, come si può dire, sigaro, 3 pallette unite da una sbarra, praticamente sono 3 pallette, sì, unite da una sbarra, che ruotano e vanno verso una direzione. Allora c'è la cabina di pilotaggio, che noi vediamo all'inizio quando loro fanno le prime manovre. Poi tra l'altro loro si stanno anche un po' sul cazzo, diciamo la verità. Quindi poi quando quello muore poi anche un po' contento. Tutto sommato, cioè che non è che c'era sta simpatia fra loro due, no? E scusate, ma stanno buttando la monnezza qua fuori dallo studio. Quindi praticamente c'è la cabina di pilotaggio che vediamo all'inizio e non vedremo mai più. L'ambiente centrale, che è l'ambiente dove ci sono queste 2 capsule, cioè queste 2 cose per l'ibernazione, e il terzo ambiente, che è l'ambiente, l'habitat, fondamentalmente, cioè dove poi questi 2 cristi dovevano passare tutto il resto del tempo. Dove che è 4 metri quadri, cose del genere. Cioè. Che c'è il cesso, cioè quindi perché se fossero stati insieme avrebbero cagato uno di fronte all'altro, ma fondamentalmente. E possono fare ginnastica, possono fare tutto, e poi ci sono anche dei controlli, insomma, basici, perché dice: "Guarda, non mi vado ad andare fino alla cabina di pilotaggio", e allora ci sono dei comandi a croccare, perché siamo stati abbastanza furbi da metterla ai lati, esatto, le 2 cose invece di metterla al centro, esatto. E quindi succede a un certo punto che, appunto, durante questo viaggio, durante l'ibernazione, vengono svegliati i 2 tizi perché c'è questa emergenza, la scintilla, qualcosa che dà fuoco praticamente all'ambiente dove loro hanno le 2 capsule. Uno si salva e l'altro rimane bruciato. Descriviamo la scena, perché c'è una scena di un pathos incredibile che dura qualcosa come 30 secondi, una cosa del genere. Certo, che dove si vede il primo piano di questo: "Oh mio Dio, sta andando a fuoco tutto, oh mio Dio, devo uscire." Poi si vede questo tizio che striscia fuori da quello che potrebbe essere tranquillamente, che ne so, una scatola di cartone di Amazon, e poi improvvisamente esce fuori praticamente dallo stanzino dove ci sono le capsule, chiude la porta dietro di sé e si ritrova nell'habitat, quello lì praticamente principale. Da quel momento non vedremo mai più la stanza che va a fuoco. Quindi insomma una bella scena proprio di quanto ti ha lasciato un pochino. No, ma poi mi ricordo le piante, sì, le piante, le fiamme che sono tipo in overlay, in sovraimpressione. Vabbè, ma è logico, c'è un tonno da fuoco, devi distruggere qualche cosa che no, probabilmente ti servirà a casa, insomma, quindi hai preso perché, che ne so, roba da casa. Quindi. Esatto, perché questi hanno preso, cioè quello che loro utilizzano come scenografia è il garage di uno di questi, fondamentalmente, insomma. E quindi praticamente questo habitat, che è tra la cabina di pilota, anzi no, l'habitat, questa capsula insomma dove c'è, è presente tra l'habitat e la cabina di pilotaggio. Quindi da lì in poi lui non entra più là dentro perché c'è il morto, non si può. C'è puzza di pollo. Esatto. Esatto. E quindi non può andare nella cabina di pilotaggio. E deve passare tutto il suo tempo da solo, completamente da solo, quindi tutti questi mesi praticamente che rimangono per arrivare su Europa. In questo ambiente, in questo habitat dove non c'è un letto, non c'è niente, cioè non è predisposto per quello, e fa ginnastica, mangia, riflette, ogni tanto comunica con la terra, dice quello che è successo, e praticamente tutto il, diciamo un buon quarto di film, forse anche di più, è praticamente lui che caga, magna, fa ginnastica e fa le sue riflessioni, quindi annota praticamente: oggi ho fatto 20 minuti di ginnastica, forse è troppo, dovrei farne un quarto d'ora domani, e cose via così, insomma. praticamente qui è il momento in cui a Marco forse gli mancano dei pezzi. Sì, ho cominciato ad avvertire come una presenza che mi ha un po' portato fuori, un po' fuori dal mio corpo. E niente, comincio ad addormentarmi, cioè a quel punto comincio proprio che c'è il sonno pesante, comincio a chiudere gli occhi, qualche volta so che diciamo traballato sulla sedia, e niente, mi ricordo un cazzo, alla fine ho dovuto dire guarda non ce la faccio più. E me lo sono dovuto vedere io poi, esatto, quindi poi perché, mi hai raccontato la fine, ma che perché io ovviamente non è posso, cioè nel senso non puoi spezzare un film così e no. Tra l'altro, cioè, comunque, tu pensa che questo comunque per arrivare su Europa ci vogliono dai 5 ai 6 anni, esatto, posta. Però 13 anni, cioè sei per andare e sei per tornare. Sì, ecco 12. Per te. Beh sì, 7, 4, sì, vabbè, ok. Dormendo, hanno la sorpresa comoda, cioè, no, ma in realtà durante il film, ma lì poi c'è pure secondo me un problema di localizzazione, come abbiamo visto poi nel film che abbiamo visto pure ieri sera, ma ne parliamo nella prossima puntata, diciamo che non si so tanto, perché a un certo punto dice anni, poi dice mesi, insomma, non si capisce un cazzo, insomma, devo dire. Però quella è la parte insomma trascurabile. E praticamente Marco si addormenta, ma quando si addormenta arriva il momento più, anche più interessante, perché lui ovviamente in questa paranoia di anni che passa da solo, cioè è inverosimile una cosa del genere, cioè io avrei aperto il portellone, che non c'è, ricordiamo, non c'è neanche un portellone per l'esterno. Vabbè, apri il portellone per pollo, esatto. E praticamente lui a un certo punto impazzisce, cioè comincia a avere i primi segni di follia, e sente praticamente dei suoni dalla capsula del morto, chiaro, no? Perché c'è anche l'elemento pseudo horror, no? Quindi lui sente la voce, sente che lo chiama, tipo una cosa un po' così, lo dice insomma sulla base alla terra, gli dice guardate io lo sento dei rumori, e quelli dicono sì sì, tu fai la manovra per ritornare ovviamente sulla terra. Ma che succede? Succede che per fare la manovra per ritornare sulla terra, quindi abortire la missione, ci sono dei cortocircuiti, cioè nel senso sono dei problemi dal punto di vista dell'energia, e lui deve praticamente riparare tutto il sistema energetico della nave prima di soffocare e rimanere congelato, e ogni tanto prova a fare questa manovra con una scatoletta con un relè e un come si chiama quelli che giri, cioè tipo una rotella, una rotella con due pulsanti, e lui così praticamente questa cosa, e ogni volta prova a far partire questa astronave e arriva in tutto in blackout, fino a che a un certo punto ci riesce, anche se in realtà dal film si capisce che ci riesce, ma fino a un certo punto. Però comunque lui, il bello di quel lieto fine del film è che lui riesce a ritornare in orbita sulla Terra, però dice adesso è un po' complicato, fa la cosa di rientro, dobbiamo cercare di trovare un sistema, e lui gela tutti. Sai che c'è? Gli dice. Ho fatto 30. Io mi sono fatto 10 anni in giro per il sistema solare per tornare indietro, per essere salvato, però in realtà la mia missione era quella di fare foto alle balene d'Europa e quindi prende e riparte. Quindi non sapevo niente più di lui, se è morto, se è vivo, e secondo me pure sulla terra se ne so. Vabbè, vabbè, te la fa un culo. E da lì in poi, il giorno dopo, sui giornali non se ne è più parlato di questa cosa, secondo me, questa è la mia opinione. Insomma, Marco, Astronauts. Sì, io lo consiglio. Allora, se avete problemi la notte che vi svegliate e non riuscite a prendere sonno, lo cercate su YouTube, è gratis. Voi sparate a tre quarti. Ma che tre quarti? Già dopo 20 minuti cominciamo. No, 20 minuti no, dai. È troppo? No, dai, la prima parte succedono cose. Vabbè, ma succedono la prima parte dove succedono, diciamo, cose? Sono 10 minuti. Dopo mezz'ora comincia a diventare. Io non credo che ci arrivi da mezz'ora. Comunque, questo è, penso, l'unico film. Vabbè, guarda che da quando tu hai detto mi sto addormentando. Mancavano 20 minuti alla fine. Infatti, film. Era troppo. Questo è l'unico film dove praticamente mi sono addormentato. Cioè, in vita mia, io non mi addormento. Anche se sono le cose più brutte del mondo. No, abbiamo visto cose. Guarda, posso dire che secondo me abbiamo visto anche cose peggiori. Che non ce le ricordiamo, però abbiamo visto anche cose peggiori. E secondo me tu eri particolarmente stanco. Perché il film era brutto e noioso, senza dubbio. Fatto veramente con 10.000 lire, perché. Cioè, tutto dentro una scatola, questo dentro una scatola di 3 metri per 3 metri, da solo. E è normale che un film così non. Cioè, oddio, devi essere un cazzo di regista della Madonna. E anche un grande attore. Cioè. E anche un attore con carisma, certo, è chiaro. Invece lui. C'ha lo stesso carisma di quello morto, insomma. Diciamoci la verità. Vabbè. E lui nel dubbio ha detto: senti, io moro subito, così me levo il problema. Sì, insomma. Sì, quanto me date è troppo poco, ragazzi. Famo che moro. Moro subito, esatto. Esatto. Vabbè, dai, comunque, finisci, stavi dicendo. Non ricordo più cosa stavo dicendo. Il tuo commento, la tua recensione. Il mio giudizio è questo, cioè è un film che vi può portare, cioè che regala sensazioni e praticamente esperienze oniriche. Però nel senso proprio che quando ti addormenti mentre lo vedi sogni e vedi cose belle, insomma. Quindi sì, è un film che vi consiglio per determinate situazioni, tipo quelle di mancanza di sonno, inappetenza o cose del genere, insomma. Quindi se state male ve lo potete guardare, vi mette proprio altro che melatonina, che vuol dire, cioè. certo meglio del Tower. Mamma mia del Tower. Tower è più divertente. Comunque invece la mia recensione è, allora devo dire, potenzialmente era interessante, cioè poteva stare. Abbiamo visto già film di questa portata, cioè molto minimal, che erano concentrati in un contesto, perché ovviamente anche per risorse. Abbiamo visto film brutti ma anche carini, cioè nel senso, comunque film che comunque hanno espresso qualcosa. Allora, questo film non esprime niente, è noioso, è secondo me più lungo per esigenze produttive, secondo me più lungo di 20-30 minuti rispetto a quello che potrebbe essere, perché dopo che tu mi fai vedere due o tre scene che mi fai capire che questo per anni caga, fa ginnastica, poi faceva degli esercizi mentali pure, se non mi ricordo male, ma tu già stavo oltre, insomma devo dire, è un film che secondo me non è la pochezza, il minimalismo che lo fa brutto perché è proprio brutto, cioè è brutto, un brutto film girato male, pensato male, recitato male e pagato male, sì, questo secondo me. Però io voglio dire, secondo me rientra nella categoria trash, secondo me. Eh beh sì, sicuramente è monnezza, cioè nel senso che secondo me questo tipo di film ha degli appassionati, sono abbastanza convinto di questo. Non lo so. Non sei convinto? Non lo so, non sono convinto, però. Beh, non è che devi essere convinto per forza. Alla fine 78.000 visualizzazioni, quante ce n'ha? 75.000 visualizzazioni. 75.000, sono 75.000 persone. Possono essere anche 75.000 persone che sono capitate, hanno visto i primi 10 minuti e se ne sono nati. Esatto, e sono stati lamentati. Però io sono convinto, cioè io sono abbastanza convinto che se esistono sti canali, esiste la gente che si guarda sti film. Cioè, perché io poi alla fine rimango a faccia. Devo dire, sono brutti, però qualche volta mi ci viene ad andarli a vedere sti film brutti. Perché sei masochista? Sì, un po' masochismo. Un po' masochista. Sì. Ma secondo me è proprio un culto sta roba. Cioè, nel senso. Ecco, noi la trasmissione la potremmo chiamare bucio di culto. Bucio di culto, esatto. Ma non lo faremo. No, non lo faremo. Bene, detto questo, vi diamo appuntamento a qualche, tra qualche giorno con un'altra puntata, un altro film. Ah, ma questo però, questo non mi sono addormentato. Non ti sei addormentato perché... perché beh, le risate sostituivano la noia. Esatto. Ma cioè, non per volere del film, chiaramente. No, perché non è un film comico. Però poteva esserlo. Avrebbe potuto esserlo. Ma non vi diciamo niente e vi diamo appuntamento, quindi alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao. E bella per voi.